Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dopo l'assalto ai cristiani in Egitto, interviene Napolitano, chiede che il tema della libertà religiosa sia discusso in sede europea. Sfiora il 2% l'inflazione a dicembre, per l'Istat il tasso di crescita dei prezzi nel 2010 è raddoppiato rispetto all'anno prima. Caso Battisti, a Roma sit-in e presidi per chiedere l'estradizione, ma i partiti si muovono in ordine sparso. Il basket ora è ufficiale, Dan Peterson di nuovo alla guida dell'Olimpia a Milano, alle 15 la presentazione. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parla della libertà religiosa e dopo gli assalti ai cristiani in Egitto chiede che il tema venga discusso anche a Bruxelles. Dalla Fiat ai rifiuti fino alle violenze contro i cristiani, dopo il discorso di fine anno nel suo quarto giorno di visita a Napoli, Napolitano torna sui temi più caldi d'attualità. Serve un dialogo più costruttivo, ammonisce il Capo dello Stato rispondendo al chi gli chiede come mai il piano Marchionne sia stato ben accolto dai mercati ma sia molto discusso dai lavoratori. Credo che nessuno possa negare che esista un problema di bassa produttività del lavoro e quindi ci deve essere il confronto, si deve assumere questo obiettivo. Tutte le parti in causa debbono riconoscere l'essenzialità di questo impegno ad aumentare la produttività del lavoro a fini di competitività internazionale della nostra economia. Il Presidente della Repubblica si sofferma poi sulla difficile convivenza tra cristiani e musulmani nei paesi arabi, in particolare in Egitto dopo la strage di Alessandria, auspicando una iniziativa europea sul tema della libertà religiosa. Altro capitolo caldo, l'emergenza rifiuti in Campania. Napolitano riferisce di aver incontrato ieri il sindaco di Napoli, Iervolino, e il governatore campano Caldoro e parla di clima molto costruttivo che lascia ben sperare. Infine, nuovo appello su occupazione giovani. Occorre tenere aperte le linee di comunicazione con le nuove generazioni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Aumenta l'inflazione in Italia. Gli ultimi dati sono stati comunicati questa mattina dall'Istat e segnalano un tasso di crescita annuale per il 2010 dell'1,5%, quasi raddoppiato rispetto a quello del 2009. In dicembre l'inflazione è schizzata al più 1,9%. A pesare sono soprattutto i prezzi dei carburanti. La benzina è aumentata in un anno del 9,8%, mentre il rincaro del gasolio ha toccato il più 14,5% rispetto al 2009. È fissato per domenica 9 gennaio alle 12 l'incontro fra le segreterie della CGIL e della FIOM. Temi della riunione saranno l'accordo sullo stabilimento Fiat di Mirafiori e l'eventuale firma tecnica dell'intesa nel caso di esito positivo del referendum che si terrà nei prossimi giorni. Ricordiamo che la FIOM non ha firmato l'intesa su Mirafiori. Anche oggi in borsa occhi puntati sui titoli Fiat. Sentiamo tutti gli aggiornamenti in diretta con Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Sì, buongiorno. Partiamo Enrico intanto da un dato abbastanza interessante che è quello del continuo incremento dei listini azionari europei che stamattina stanno andando di nuovo piuttosto bene dopo i forti rialzi messi a segno ieri in una giornata che è stata estremamente brillante come giornata d'esordio dell'anno. Davvero non ci si poteva lamentare. Milano più 0,90% e proprio Milano è trainata ancora una volta da Fiat. Ma da non tutta la galassia, perché a trovare ancora il riscontro e l'interesse degli investitori sono soprattutto i titoli SPA, Fiat SPA più 3,77%, per cui è l'auto. La società scorporata Fiat Industrial, che ieri aveva comunque chiuso in rialzo del 3%, oggi frena e cede lo 0,28%. Ha comunque vissuto una mattinata piuttosto volatile perché era partita con un rialzo insieme alle SPA di oltre 2 punti per poi invece fare marcia indietro. In discesa di mezzo punto anche i titoli Exor, che sono gli azionisti di riferimento, appunto meno 0,52%. Perché le SPA corrono, gli investitori scommettono su imminenti operazioni straordinarie che potrebbero coinvolgere Chrysler. Sergio Marchionne ci ha abituato costantemente a delle sorprese e anche questa potrebbe non essere esclusa. Quindi direi che per il momento è tutto, ma naturalmente gli investitori continuano a mantenere i riflettori puntati su questa galassia. Enrico. Grazie Deborah, buon lavoro. Adesso passiamo al caso Battisti contro la decisione del Brasile. Oggi mobilitazione sit-in davanti ai consolati brasiliani a Bari, Bologna, Milano, Napoli e Firenze. A Roma, davanti all'ambasciata sempre brasiliana, Piazza Navona, manifesteranno politici di tutti i partiti che tuttavia si muovono in ordine sparso, separati da polemiche e distinguo. E tra poco il premier incontrerà Alberto Torreggiani, figlio di una delle vittime del terrorista rosso. Un incontro seguito da Flavia Carletti, con la quale ci colleghiamo. Buongiorno Flavia. Sì, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui all'aeroporto militare di Milano, dove il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è arrivato da qualche minuto da Roma e sta proprio incontrando in questi minuti Alberto Torreggiani in un incontro privato. Alberto Torreggiani, appunto, è il figlio di Pierluigi, il gioielliere che è stato ucciso durante una rapina a Milano il 16 gennaio del 1979, a cui Cesare Battisti ha partecipato. Dopo l'incontro poi il Premier incontrerà a breve i giornalisti, però in questo momento lui è sceso dall'aereo ed è andato direttamente in una saletta privata per parlare a quattro occhi con Alberto Torreggiani. Quindi noi stiamo aspettando che finisca questo incontro privato per poi avere, speriamo, dal Premier direttamente dalle sue parole per sapere quello che si sono detti. Bene, grazie a Flavia Carletti. Adesso ci spostiamo a Roma. Come dicevamo, oggi ci sono numerose manifestazioni politiche, ma in ordine sparso davanti all'ambasciata brasiliana Piazza Navona a diversi orari. Sentiamo il servizio. A Roma, ma anche davanti a tutte le sedi diplomatiche brasiliane nel nostro paese, quello di oggi è il giorno della mobilitazione contro la mancata estradizione di Battisti. A manifestare sono i parenti delle vittime, ma anche i partiti politici, che però arrivano divisi a questo appuntamento. Il sit-in principale è quello in programma alle 16 a Roma, in Piazza Navona, davanti all'ambasciata brasiliana. Ci sarà anche Alberto Torreggiani, che è anche esponente del Movimento per l'Italia di Daniela Santanchè, la formazione che ha promosso l'iniziativa, alla quale hanno aderito anche PDL e UDC, ma a Piazza Navona ci saranno anche esponenti del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che però arriveranno un'ora dopo. Alle 18.30 sarà invece la volta della destra di Storace. Altri sit-in di protesta oggi si svolgeranno anche davanti al Consolato Brasiliano di Milano in Corso Europa e a quello di Firenze in Piazza Pitti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla mobilitazione per ottenere l'estradizione di Cesare Battisti, Paolo Piacenza questa mattina ha sentito Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione fra i familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Io credo che il problema sia il comportamento del governo italiano, che non si è mosso in precedenza come si sta muovendo adesso, no? Nel senso che ha lasciato correre sulla questione come fosse una questione di scarsa importanza. Questo è il primo dato. Il fatto che adesso sia il governo sia i partiti si stiano mobilitando per far rientrare questo terrorista in patria, credo che sia una cosa estremamente importante. E qui viene fuori tutto il discorso del superamento degli anni di piombo, perché molte persone vorrebbero che questi criminali, che non hanno fatto altro che danneggiare non solo la vita politica del nostro paese, ma addirittura causando morti e ferimenti in giro per tutto il paese, credo che debbano scontare fino in fondo tutto quello che hanno fatto e su cui sono stati condannati. Allora, come giudica i distinguo tra i partiti che si stanno manifestando in queste ore? Ecco, i distinguo dei vari partiti credo che siano in gran parte stucchevoli, perché nel momento in cui si parla di terroristi, a questo punto non ci dovrebbero essere né sì né ma né forse, almeno per quanto riguarda il nostro paese. Quando poi parliamo del caso di Battisti, che prima ha fatto il criminale e poi in carcere si è politicizzato, credo che anche questo debba essere significativo di una storia che di politico ha ben poco, per intendersi. Di politico ha, diciamo così, una situazione strumentale che i vari partiti cercano di portare avanti, e questo credo che non sia assolutamente valido e bello per nessuno. Ecco. Come si può arrivare a uno sforzo condiviso per una cultura della verità e della giustizia che sia veramente una cultura unitaria in questo paese? Ma guardi, a questo punto ci vuole la verità. Noi abbiamo, nel nostro paese, abbiamo avuto 14 stragi, senza calcolare quelle della mafia, eccetera, di terrorismo vario, eccetera. In nessuna di queste stragi si è arrivati ai mandanti e agli ispiratori politici. Questo è un fatto di mancanza di verità estremamente importante, che crea come posso dire, un vulnus a questa democrazia e anche una riflessione su quel periodo. Noi lo ripetiamo in ogni discorso, bisognerebbe allontanare dalle istituzioni tutti coloro che hanno permesso, hanno appoggiato il terrorismo anche con la loro colpevole inerzia, perché non ci sono solamente quelli che l'hanno appoggiato, ma ci sono anche quelli che hanno fatto finta di niente. Quelli che hanno dichiarato che per quanto riguardava il terrorismo rosso erano compagni che sbagliavano, quelli che né con le brigate rosse né con lo Stato e via di questo passo. Cioè, voglio dire, bisognerà pur fare una riflessione chiara fino in fondo, solo che qui in questo paese si sta a guardare i voti di questo, i voti di quell'altro e si cerca di prendere su tutto, finendola con l'etica della politica che è diventata un discorso piuttosto squallido. È squallido perché i morti di terrorismo non votano più, mentre i terroristi votano ancora. Ecco, questa è la tristezza che si deve superare e questo lo si potrà superare solo con la verità. E sul caso interviene anche l'Unione Europea e dice, è un'agenzia di poco fa che leggiamo insieme, è il Brasile che deve decidere, così un portavoce della Commissione Europea ha risposto a chi gli chiedeva di commentare il caso Battisti e le voci su una possibile iniziativa europea. Ora la politica, appuntamento questa sera a cena per Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti e Umberto Bossi. Berlusconi questa mattina ha ribadito il proprio ottimismo sulla tenuta della maggioranza e smentisce che ci siano divisioni soprattutto con la Lega. Così ha risposto in un'intervista andata in onda a Studio Aperto. Non c'è nulla di vero, sono chiacchiere al vento totalmente inventate. Questa maggioranza, questo governo sono solidi e capaci. Adesso andiamo all'estero, potrebbero andare avanti per settimane le devastanti inondazioni che hanno messo in ginocchio il Queensland in Australia. Oltre 20 città sono isolate o inondate, con oltre 200.000 persone coinvolte. Gli aerei militari stanno portando provviste in particolar modo a Rockhampton, la città maggiormente colpita, inaccessibile via terra per l'impressionante livello dell'acqua che continua a crescere. Finora per le inondazioni si contano in tutta l'Australia 3 vittime. Andiamo in Iran, parliamo del nucleare. Teheran invita a visitare i suoi impianti, ma seleziona i visitatori. Cina e Russia saranno benvenute, tutti gli altri del 5+1, il gruppo dei paesi mediatori con l'Iran, no. Quindi fuori Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania. Inviti poi sarebbero stati indirizzati a Egitto, Cuba, Brasile, Ungheria, come presidente di turno dell'Unione Europea, e anche al gruppo dei paesi non allineati con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, e a quelli della Lega Araba accreditati, sì, questa volta alla IEA. I contorni però sono del tutto imprecisi. A quanto si apprende si tratterebbe di una visita, guidata ovviamente, ai siti nucleari di Bushehr e Natanz, da compiersi il 15 e 16 gennaio prossimi. Una prova della nostra buona volontà, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Ramin Mehman Parast. Sarà, ma intanto non tutti i convocati confermano di aver ricevuto l'invito. E il primo fra tutti è l'Agenzia Atomica Internazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Francia ha chiesto una modifica della contestata legge sui media approvata in Ungheria, paese che ricopre dal 1 gennaio il ruolo di presidente di turno dell'Unione Europea. La norma, secondo Parigi, è incompatibile con l'idea della libertà di stampa considerata valida da tutti i trattati europei. La nuova legge ungherese, lo ricordiamo, fornisce ad un'autorità di controllo sull'informazione di nomina politica strumenti di sanzione delle testate giornalistiche. Ieri anche Bruxelles ha posto dubbi sulla legge e ha chiesto chiarimenti a Budapest. Ed ora ci spostiamo in California. Ieri cambio della guardia per il governatore. Sentiamo il servizio. Passaggio delle consegne interessante in California tra l'ex governatore dello Stato Arnold Schwarzenegger, il Terminator, l'attore diventato politico, e Jerry Brown, il nuovo governatore. Dicevo, non poteva essere più bizzarro questo passaggio perché i due personaggi non potrebbero essere più diversi fra loro. Da una parte un attore venuto dal nulla che si affaccia sulla scena della politica, dall'altra invece un politico consumato di 72 anni che viene dalla politica non solo perché suo padre fu già governatore della California, ma perché lui stesso fu governatore 36 anni fa. I problemi per la California non sono da poco, un fortissimo disavanzo pubblico. Per ora Brown ha annunciato di voler ridurre del 7% il suo staff. Non basterà a risolvere i problemi dello Stato californiano. Una coincidenza interessante importante che vi segnalo. Sia in California che a New York i due governatori vanno a sedersi su poltrone che furono occupati dai rispettivi padri. A New York Andrew Cuomo segue le orme di Mario Cuomo, in California Jerry Brown del padre. Forse un sintomo della crisi, si guarda all'indietro per cercare sicurezza. Questi gli argomenti principali in onda oggi all'interno di GR24. Dopo l'assalto ai cristiani in Egitto interviene Napolitano, chiede che il tema della libertà religiosa sia discusso anche in sede europea. Il presidente chiede anche più dialogo sulle relazioni industriali. Il riferimento è alla Fiat. Sfiora il 2% l'inflazione a dicembre. Per l'Istat il tasso di crescita dei prezzi nel 2010 è raddoppiato rispetto all'anno prima. E poi il caso Battisti a Roma, sit-in e presidi per chiedere l'estradizione, ma i partiti politici si muovono in ordine sparso. Infine il basket, di cui ci occuperemo tra poco. Ora ufficiale Dan Peterson, di nuovo alla guida dell'Olimpia Milano, alle 15 la presentazione. E come avete sentito è intervenuto anche il capo dello Stato a chiedere un intervento o almeno un dibattito in sede europea sulla libertà religiosa. Nel pomeriggio a Torino, all'insegna di Salviamo i Cristiani, si svolgerà alle 14 una manifestazione organizzata dalla Chiesa, dalla comunità cristiana copta e dal movimento politico Io Amo l'Italia, presieduto dall'europarlamentare Magdi Allam. E naturalmente ci sono manifestazioni annunciate in tutta Italia, ma rimaniamo a Torino perché continuano le polemiche per la costruzione della nuova moschea torinese. E mercoledì, quindi domani, la Caritas ha in programma una preghiera interconfessionale proprio dove partiranno i lavori. Mi sembra quasi che come quattro ladroni si siano trovati i dirigenti del comune di Torino di nascosto durante le feste per approvare il permesso della moschea di Torino. È stato questo tre giorni fa il primo commento a Radio 24 del capogruppo leghista in Regione Piemonte Mario Carossa alla notizia del via libera alla costruzione di una nuova moschea non lontano dal centro di Torino. Dopo Carossa tutta una serie di bocciature anche colorite da parte degli esponenti leghisti, chi facendo riferimento all'odio che si fomenterebbe dentro le moschee, chi citando apertamente le violenze religiose che si stanno scatenando in varie parti del mondo contro i cristiani. Inutile la scelta della comunità musulmana torinese di rinunciare al minareto, così come inutili sono state le parole concilianti fin da subito pronunciate da uno dei responsabili della futura moschea, Abdelaziz Kunati. La comunità musulmana si sente torinese, fa parte di questo tessuto, con questo progetto sicuramente condividere la comunità locale per i suoi progetti, per il futuro, e quello di ricercare il benessere collettivo ed una coesione sociale. Alla fine, per calmare le acque, si è messa di mezzo la Caritas, che per domani pomeriggio ha annunciato una preghiera interreligiosa con esponenti cattolici, musulmani ed ebrei, proprio nel luogo dove sorgerà la futura moschea. I musulmani torinesi parteciperanno, anche per condannare la strage di Alessandria d'Egitto, ma sul futuro della moschea pesa il già annunciato ricorso leghista al TAR e la promessa di fermare i lavori se, nelle prossime elezioni comunali, Torino passasse al centrodestra. Giovanni Stinco, Radio 24, Sole 24 Ore. Sulla costruzione delle moschee in Italia abbiamo parlato questa mattina a Bianco o Nero. La risposta è sì, a patto che sia tutto sotto controllo. Questa è l'opinione di Valentina Colombo, docente di geopolitica del mondo islamico presso l'Università Europea di Roma. L'ha intervistata Laura Bettini. Ciascuno di noi è libero di esercitare la propria fede, il proprio culto, per cui ovviamente anche i musulmani devono avere i propri luoghi di culto. A questo punto però io esigo che le moschee siano veramente trasparenti, ovvero se io so che una moschea che viene costruita in una grande città italiana, sia questa Firenze, sia questa Genova, sia questa Milano, cade nelle mani di associazioni ideologicamente conniventi al movimento dei fratelli musulmani, io dico di no, assolutamente no. Con tempo ovviamente io non dico no alle moschee, perché i musulmani hanno tutto il diritto di esercitare appunto la propria religione. Sono le 13:21 minuti, cambiamo argomento. Il 4 gennaio di 20 anni fa l'eccidio del Pilastro a Bologna e il delitto di tre giovani carabinieri sotto una pioggia di proiettili sparati dagli uomini della Uno Bianca. In totale furono 24 le vittime e un centinaio i feriti della banda che dall'87 al 94 seminò il terrore fra l'Emilia Romagna e le Marche. A comporla diversi poliziotti, compresi due dei tre fratelli Savi, responsabili degli omicidi. Oggi a Bologna le cerimonie per l'anniversario. La 1 bianca ci fu per la mancanza di controlli, dice a Radio 24 Achille Serra, oggi senatore dell'UDC, all'epoca vice capo della polizia mandato a Bologna dopo lo scandalo. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Io trovai una questura a pezzi, i vertici erano completamente in mano al personale senza che ci fosse un'attenzione particolare. Che tipo di lasciti ha lasciato nel corpo della polizia in particolare? All'Italia ha lasciato una pagina veramente tragica, rischia di allentare la fiducia nelle istituzioni. Per la polizia di Stato non è stato se non il constatare che quelli erano due criminali che niente hanno a che fare con la moralità e la sanità della polizia. L'eccidio della Pilastro, come fu possibile? C'è stata la mancanza di attenzione, la mancanza di controlli. Quei due delinquenti non sarebbero stati alle volanti. Pensare che non ci siano dei delinquenti è fantasticare. Cosa ne pensa dei permessi premio? Io non concederei nulla a questi criminali. C'è crimine e crimine. Questo è uno dei più efferati per i quali io non darei neanche mezz'ora di permesso. Ed era sempre un 4 gennaio, l'anno il 2006, con la notte di 5 anni fa, l'allora premier israeliano Ariel Sharon venne ricoverato d'urgenza in un ospedale di Gerusalemme e versa tuttora in un coma che secondo i medici è irreversibile. Sharon ha oggi 82 anni, respira in maniera autonoma, tiene gli occhi aperti e ogni tanto sembra stringere la mano a persone che forse riconosce. Le sue condizioni sono stazionarie e per questo i figli vorrebbero trasferirlo nella sua residenza, nel ranch dei Sicomori nel deserto del Negev. Torniamo in Italia, la cronaca ci porta a Napoli. Rischia la vita il giovanissimo rapinatore che con un giovane complice ieri sera ha tentato di rapinare una tabaccheria a Napoli in via Cirillo. Un poliziotto libero dal servizio dopo aver sentito gli spari esplosi da una pistola impugnata dai malviventi che hanno ferito un Rottweiler appartenente ai proprietari della rivendita ha aperto il fuoco ferendoli entrambi. Uno dei due banditi che compirà 18 anni il prossimo 12 febbraio è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare dove si trova tuttora ricoverato in fin di vita nel reparto di rianimazione. Meno gravi invece le condizioni del complice Alessandro Diana di 18 anni che, ascoltato dalla polizia, ha confermato la dinamica dei fatti. La tentata rapina, la pistola puntata contro il titolare, gli spari contro il cane e la reazione da parte di un poliziotto libero dal servizio che ha ferito i due rapinatori. Gli agenti hanno riferito che il 18enne è apparso provato soprattutto per le gravi condizioni dell'amico. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Adesso cambiamo argomento, vi raccontiamo di uno spettacolo teatrale che diventa un libro, che poi diventa un dibattito e che parla di industria ed economia. Iniziamo dal testo teatrale, è stato scritto da un attore inglese contemporaneo, Edward Bond, racconta vicende legate al mondo della grande industria internazionale e alle sue possibili degenerazioni immaginarie ma realistiche. Il testo di Bond viene adesso messo in scena a partire da martedì prossimo, 11 gennaio, da Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. E contemporaneamente diventa un libro pubblicato in italiano dalle edizioni Scheville. Diventa anche un dibattito organizzato per lunedì prossimo dal Piccolo Teatro assieme al nostro gruppo, al gruppo del Sole 24 Ore. Sarà un incontro aperto al pubblico proprio sui rapporti tra industria, etica ed economia per provare a discutere su questo tema e per provare a capire qualcosa di più se è vero, soprattutto come ha detto Ronconi oggi presentando lo spettacolo, che questa commedia scritta 12 anni fa allora aveva uno sguardo apocalittico che adesso rischia di diventare uno sguardo quasi concreto. Alessandro Scaglioni, Radio 24, Sole 24 Ore, Milano. Parliamo di basket. Tra circa un'ora e mezza la presentazione ufficiale di Dan Peterson alla guida dell'Armani Jeans Milano. Ancora ieri a mezzanotte Dan Peterson recitava la parte di quello all'oscuro di tutto o quasi. Ho detto a tutti che non so niente fino a non essere dentro. È una cosa osservare una squadra da fuori, l'altra cosa essere dentro. Il velo si è strappato questa mattina con il comunicato ufficiale dell'Olimpia Milano. Il futuro è dietro le spalle, un filo spezzato 24 anni fa con la conquista del quarto e ultimo scudetto di un'epoca fenomenale, quella in cui la Milano da bere portava in giro per l'Italia e l'Europa una squadra quasi imbattibile, guidata da un uomo che aveva riscritto il mestiere di allenatore insegnando concetti cari all'America e rendendo tutti, non solo i suoi giocatori, un po' più ricchi e moderni di prima. Dan Ben Peterson ricomincerà a insegnare basket tra meno di 2 ore, perché malgrado i 74 anni d'età, 75 sabato prossimo, il nuovo allenatore dell'Armani va di fretta. Prima la presentazione alla stampa, poi il contatto con i giocatori e l'allenamento in campo che gli manca da un quarto di secolo. Molti storcono il naso, l'Italia non è un paese per giovani, la scelta dell'Armani lo conferma, ma la sfida è troppo bella per non seguirla. Una scelta fatta con il cuore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo un'ultima notizia che arriva da Bruxelles, riguarda indirettamente la richiesta fatta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, notizia con la quale abbiamo aperto, che chiede che almeno si discuta di libertà religiosa a livello europeo, quindi a Bruxelles. C'è, l'abbiamo citato anche prima, questo portavoce della Commissione Europea che lancia al momento non specifica e che dice per ora non è prevista alcuna iniziativa particolare a livello europeo per quel che riguarda la difesa dei cristiani dopo l'attentato in Egitto. La questione è stata discussa nell'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea in dicembre. Sono in corso colloqui tra le diverse istituzioni europee e l'alto rappresentante per la politica estera, la signora Ashton, che ha proposto al Consiglio di discutere il tema in occasione del rapporto annuale sui diritti dell'uomo. Questa, come dicevo, era l'ultima notizia. Questa edizione di GR24 è stata curata e condotta da Enrico Pagliarini, che vi auguro una buona giornata. Ringraziamo anche Filippo Aureggi in regia. Sono le 13:28 minuti. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.